chiodo sempre se mi ami è fake. Tu dimmi sempre se mi ami è fake. Mia cara, cambia questa giungla. L'ho provata e dopo un po' di turba se n'è andata la strada giusta. Sparita lì nulla più in là. Uff, Moonstar, no, non faccio il gangsta per un rally. E non cambio perché mi dis. Gusta già dal banco, pensavo mai sogni. E come non realizzarli con una busta. Come faremo, giro, non lo so. Che osa diremo agli amici del block. Sono con te, calcolami nel mob. Tu lo vorresti, ma mi sa di nop. Stavo cambiando, ma solo cambiato il modo in cui penso di cambiare. Ma non sono più lo stesso, guarda gli occhi. Forse si sono spenti con il lock. Mi chiodo sempre se mi ami è fake. Mi ami è fake. Mi ami è fake. Tu dimmi sempre se mi ami è fake. Mi ami è fake. Mi ami è fake. Mi chiodo sempre se mi ami è fake. Mi ami una strada, poi ti senti importante. Ma quello che rimarrà sarà qualche contante. Che se non conta tanto, eppure ti fa stare tranquillo, ma col canto non c'è un cazzo da dare. Io già non vorrò mai più te. Mi dici torna ma no, pensi ma tanti per me. Mille perché per te damn, ma non tornerei mai back. Perché ricadrei sicuro di nuovo per una troia da due cash. Io dividi per le pare, tu amavi solo parlare. Se ti mostro quel che ho dentro, mi potresti far del male. Senti il fumo dalle scale, sta cercando di far pace con me stesso mentre mi chiodo sempre se mi ami è fake. Mi ami è fake. Mi ami è fake. Tu dimmi sempre se mi ami è